I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Questa notte. Hello Chicago. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Se c'è qualcuno lì fuori che ancora dubita che l'America sia un posto dove tutto è possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori è vivo oggi, ai nostri tempi, se ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte è la vostra risposta. It's the answer told by lines that stretched around schools and churches. È la risposta delle code che si allungavano attorno alle scuole, alle chiese, in numeri che questa nazione non ha mai visto. La gente che ha aspettato 3-4 ore, molti per la prima volta nella loro vita, perché credevano che questa volta dovesse essere diverso, che le loro voci potessero fare la differenza. È la risposta che viene dai giovani e dai vecchi, dai ricchi e dai poveri, democratici, repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, indigeni, americani, gay, eterosessuali, disabili e non disabili. Gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world. Gli americani hanno mandato un messaggio al mondo. Non siamo mai stati solo una lista di individui o una lista di stati rossi e di stati blu. Siamo, sempre saremo gli Stati Uniti d'America. It's the answer that led those who've been told for so long. È la risposta che ha guidato quelli che si sono sentiti dire per tanto tempo di essere scettici su quello che possiamo ancora ottenere, mettendo le mani nell'arco della storia, piegandolo una volta di più alla speranza di un giorno migliore. Ci è voluto molto ad arrivarci, ma stanotte, per quello che abbiamo fatto in questo giorno, in questa elezione, in questo momento cruciale, il cambiamento è arrivato in America. A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from. Poco fa stasera ho ricevuto una magnifica telefonata dal senatore McCain. McCain ha combattuto a lungo e duramente in questa campagna e ha combattuto anche più lungamente e duramente per questo paese che ama. Ha sopportato sacrifici per l'America, sacrifici che la maggioranza di noi neanche può immaginare. Siamo tutti migliori per i servigi che lui ha reso a questo paese, altruista, coraggioso leader. Mi congratulo con lui, mi congratulo col governatore Palin per quello che hanno fatto e aspetto con ansia di lavorare con loro per rinnovare la promessa della nazione nei mesi a venire. And I look forward to working with them to renew this nation's promise in the months ahead. I want to thank my partner in this journey. Voglio ringraziare il mio compagno in questo viaggio, un uomo che ha fatto la sua campagna dal cuore, che ha parlato per gli uomini e le donne con cui è cresciuto nelle strade di Scranton e con cui è andato in treno verso casa nel Delaware, il vicepresidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. Non sarei qui stasera senza il sostegno poi della mia incrollabile, migliore amica degli ultimi 16 anni, roccia della nostra famiglia, amore della mia vita, prossima First Lady del paese, Michelle Obama. Of my best friend for the last 16 years, the rock of our family, the love of my life, the nation's next First Lady, Michelle Obama. Sasha, Amelia, vi amo più di quanto potete immaginare. Vi siete guadagnate il nuovo cucciolo che verrà con noi alla Casa Bianca. Sasha and Malia, I love you both more than you can imagine. And you have earned the new puppy that's coming with us to the White House. And while she's no longer with us. E anche se non è più con noi, so che mia nonna sta guardando insieme alla famiglia che mi ha fatto per quello che sono. Mi mancano tutti stanotte, so che il mio debito verso di loro è incommensurabile. Mia sorella Maya, mia sorella Alma, tutti gli altri fratelli e sorelle, grazie per il sostegno che mi avete dato, vi sono grato. Al manager della mia campagna, David Plouffe, eroe silenzioso di questa campagna che ha costruito la migliore campagna politica nella storia degli Stati Uniti, al mio principale stratega David Axelrod che mi ha accompagnato in ogni passo di questa strada, alla migliore squadra di campagna mai messa insieme nella storia della politica americana. È merito vostro, vi sono grato per sempre per i sacrifici che avete fatto perché tutto ciò accadesse. To my chief strategist, David Axelrod, who's been a partner with me every step of the way. To the best campaign team ever assembled in the history of politics, you made this happen, and I am forever grateful for what you've sacrificed to get it done. But above all, ma soprattutto non dimenticherò mai a chi appartiene davvero questa vittoria. Appartiene a voi, appartiene a voi. Non sono mai stato il candidato probabile per questo incarico. Non abbiamo cominciato con soldi o grandi sostegni. La nostra campagna non è nata nei corridoi di Washington, è iniziata nei cortili di Des Moines, nei salotti di Concord, nei porticati di Charleston. È stata costruita da uomini e donne che lavorano e che hanno tirato fuori i risparmi che avevano da donare, 5, 10, 50 dollari per la causa. Ha tratto forza dai giovani che hanno rifiutato il mito della apatia generazionale, che hanno lasciato case e famiglie per lavori che davano loro pochi soldi e ancor meno sonno. Ha tratto forza non dai più giovani che hanno affrontato il freddo e il caldo per bussare a porte di assoluti sconosciuti e a milioni di americani che si sono offerti volontari, hanno organizzato e dimostrato che oltre due secoli dopo un governo della gente, dalla gente e per la gente non è scomparso dalla terra. And proved that more than two centuries later, a government of the people, by the people, and for the people has not perished from the earth. This is your victory. Yes, I did. 64,1% degli aventi diritto, come si dice, gli americani che ieri o nei giorni precedenti hanno votato, per dar luogo in buona parte di loro, una percentuale attorno al 53 e qualcosa per cento, alla famosa valanga, che naturalmente tradotta in termini di grandi elettori, di voti elettorali suddivisi per gli stati, è diventata straordinaria, addirittura superiore a quella che un pessimistico Karl Rove aveva espresso ieri. Ha sbagliato lui, hanno sbagliato in tanti. Barack Obama si è aggiudicato 338 voti elettorali contro solo 163 di John McCain, un risultato così forte, straordinario, che ha generato poi, no, questa grande pacificazione dei discorsi immediatamente successivi al risultato. Il grande discorso di Barack Obama, di cui abbiamo ascoltato la prima parte poco fa e di cui cercheremo di darvi conto anche integralmente della seconda più tardi, e l'altrettanto significativo, cavalleresco, magnifico discorso, vorrei dire, di John McCain, di concessione, un uomo comunque soddisfatto, appagato, in pace con la coscienza, con i propri compiti, con le proprie responsabilità e, lasciatemelo dire, forse anche con il proprio partito. Ha fatto quello che doveva fare, adesso può riposare, può prendersi il meritato riposo, ne esce perfettamente intatta la sua magnifica reputazione di americano. Dopo lo speciale di stanotte, naturalmente noi siamo di nuovo qua, vogliamo sapere il vostro parere sulla elezione, ma magari non tanto la vostra manifestazione di antipatia o simpatia per vincitori e perdenti, ma la vostra sensazione di questa vicenda elettorale, che mi sembra poi il fattore più importante, no? Qui credo che almeno in parte così apprezzabile rimangano un po' indietro gli orizzonti politici, tanto più partitici, secondo quella che è la nostra accezione. C'è invece una politica che va in cerca, con tutti i rischi annessi, di possibili leader. Sono modelli che sicuramente rivedremo presto anche in Europa, partiti emarginati, non messi da parte a favore di personalità. È qualcosa che vi interessa, è qualcosa che vi ha intrigato, è qualcosa che vi ha preoccupato, fatecelo sapere. 349-238-6666. Ma ora ci interrompiamo nell'ascolto di Barack Obama, perché c'è un altro grande americano che sta per parlare. Tra pochi secondi dovrebbe cominciare il discorso del presidente tuttora in carica, George W. Bush. Parlerà delle elezioni e del procedimento di transizione dei poteri. Eccolo che sta entrando nel giardino della Casa Bianca, lo ascoltiamo insieme. I had a warm conversation with President-elect Barack Obama. I congratulated him and Senator Biden on their impressive victory. Ho parlato e mi sono congratulato con Obama e Biden per la loro impressionante vittoria. For my administration as he makes the transition to the White House. Devo occuparmi di condurre la transizione della Casa Bianca dalla mia gestione. Congratulated him on a determined campaign. Ha condotto una campagna determinata. The American people will always be grateful for the lifetime of service John McCain has devoted to this nation. Gli americani saranno sempre grati per il modo in cui John McCain li ha serviti lungo tutta la sua vita. No matter how they cast their ballots, all Americans can be proud of the history that was made yesterday. A prescindere dal risultato delle urne, gli americani possono essere orgogliosi di ciò che è andato in scena ieri. They showed a watching world the vitality of America's democracy. Hanno mostrato la vitalità, la forza della democrazia americana, toward a more perfect union, che tende a un perfezionamento dell'unione. It's a triumph of the American story, testament to hard work, optimism and faith in the enduring promise of our nation. Duro lavoro, ottimismo, fede nel grande destino della nostra nazione. This moment is especially uplifting. È un momento straordinario. For the generation of Americans who witnessed the struggle for civil rights with their own eyes. Per la generazione di cui fa parte lui stesso, che ha visto con i propri occhi le battaglie per le cause civili, sta parlando di razza. siamo una nazione, una sola nazione. Yet there are some things that will not change. The United States government will stay vigilant in meeting its most important responsibility, protecting the American people. Ma c'è una cosa che non cambierà mai in America: il suo governo è qui per proteggere i cittadini nel modo migliore. There's important work to do in the months ahead, and I will continue to conduct the people's business. Ho un lavoro importante ancora nei mesi a venire e cercherò di farlo nel modo migliore. During this time of transition, I will keep the president-elect fully informed on important decisions. Durante questo periodo terrò informato il nuovo presidente delle decisioni che prenderò. Laura and I will return home to Texas with treasured memories of our time here, with profound gratitude for the honor of serving this amazing country. E sono estremamente profondamente grato di aver servito il paese. Obama, his wife Michelle and their beautiful girls stepped through the doors of the White House. I know millions of Americans will be overcome with pride at this inspiring moment that so many have waited so long. Gli americani saranno orgogliosi del momento in cui Obama, sua moglie Michelle e le bambine entreranno attraverso questa porta alla Casa Bianca, un momento che hanno atteso, invocato così a lungo. To uphold the Constitution of the greatest nation on the face of the earth. Last night I extended an invitation sulla Costituzione del più grande, della più grande nazione sulla faccia della terra. And Mrs. Obama to come to the White House. And Laura and I are looking forward to welcoming them as soon as possible. Thank you very much. E sono impaziente di accoglierli calorosamente il più presto possibile. Un George W. Bush sintetico, come sempre, come nel suo stile, ma anche devo dire coinvolto e in buona misura, non so. Può sembrare strano dirlo, ma commosso dall'evento di cui è stato testimone, no? in una posizione così particolare. Sarà lui che sulla porta della Casa Bianca, in un certo senso, consegnerà le chiavi, no? Come si fa tra inquilini, vecchi inquilini e nuovi inquilini. Ha concluso, ha ringraziato, ha girato le spalle alla platea che lo stava ascoltando, il reporter che lo stava ascoltando, e è tornato all'interno della Casa Bianca. Il discorso che avete ascoltato in diretta è avvenuto nel giardino, è stato pronunciato con toni altamente partecipati da un uomo che pure vive l'angoscia, no, di questa esclusione che gli è stata riservata in occasione della elezione. Non è stato chiamato, come dire, dagli americani sulle prime pagine, da nessuno degli americani sulle prime pagine a dire la propria in alcun modo. Adesso scorrono di nuovo le immagini del discorso di concessione di John McCain, un altro momento importante nella giornata storica di ieri, ma io aggiungerei anche questo modo così sobrio, ma anche ripeto partecipato, che George W. Bush ha scelto per dare ufficialmente il benvenuto dell'amministrazione americana in carica, che inizia dunque questa particolare procedura che si chiama transizione, che si chiama passaggio di consegna, a cui da oggi dedicheremo, per quello riguarda l'America, il centro, no? Il focus della nostra attenzione, per capire quanti, come, in che modo, in quali, attraverso quali strade, con quali prospettive queste consegne passeranno da George W. Bush e i suoi a Obama e i suoi. Io vi ricordo 349-238-6666. Vogliamo a nostra volta, in piccolissima scala, no? La vostra partecipazione a questo momento così importante. You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby, I see you for who you are. One time apple queen, and one time tramp, and an old time movie star. Shell picker of the pickiest kind, but you always used to think that someday I'd relax a little and be more like you. Then I realized how silly that thought was. I needed to stand in my friends, we have come to the end Phoenix, of a long journey. Arizona. The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, il popolo americano ha parlato chiaramente. Calling Senator Barack Obama to congratulate him, please. To congratulate him. Ho chiamato il senatore Barack Obama per congratularmi per la vittoria che ha conseguito e poi dice per favore non voglio sentire segni di diniego. Questo è l'attacco del discorso di concessione pronunciato ieri con straordinario spirito di cavalleria e una compostezza, una eleganza che va anch'essa seriamente ricordata da John McCain in questa importante giornata. Ma prima di continuare a parlare degli eventi di ieri, a tutto ciò che ne sta discendendo e ascoltare i vostri pareri che stanno arrivando copiosi, vogliamo fare una rapida puntata a Chicago per ascoltare così all'impronta, ma anche se possibile in chiave la più personale possibile, anche un po' informale, la emozione vissuta dall'uomo che dall'America ci ha accompagnato, che è Jefferson Ming, in questa infinita rincorsa, ovvero Mario Platero, il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, benvenuto in trasmissione. Eccoci, bene, grazie. Allora, dacci veramente in pochi istanti, in pochi minuti, proprio un tuo ricordo partecipativo di questo evento che poi ci hai aiutato a ricostruire nelle sue mille fasi, nei suoi mille passi, ma che ieri poi, ti posso garantire, addirittura qua in Italia ha conosciuto una temperatura emotiva particolare. Posso immaginarmi dove eri tu? Guarda, il momento, devo dirti, uno dei momenti più emozionanti, ce ne sono stati tanti ieri sera, ma è stato quando per strada, con questo fiume di persone che si accalcava di fianco a Grant Park per cercare di entrare, per cercare di essere parte di questo momento davanti al quartiere generale di Obama, ecco, in quel momento si è saputo che le reti televisive comunicavano ufficialmente quel che già sapevano da tempo, e cioè che Barack Obama era il 44esimo presidente degli Stati Uniti che aveva vinto contro John McCain. Ecco, in quel preciso momento c'è stata un'eruzione incontenibile di straordinaria gioia umana, che è bello vederla, soprattutto in questi momenti in cui le cose non sembrano andare per il meglio sul fronte economico, sul fronte sul fronte militare. Bene, questa gioia incontenibile, direi, se possiamo fare un confronto, immaginiamo di una potenza 10 volte superiore a quella che avremmo visto fra gli ultra tifosi dell'Inter in caso di vittoria dello scudetto, perché i clacson hanno cominciato a suonare, cosa inusuale per l'America, la gente ha cominciato a urlare, i cori improvvisati in vari gruppi di queste migliaia di persone, e poi è continuato per 20-30 minuti il tempo in cui io sono rimasto lì. Questo è stato, direi, un momento di partecipazione emotiva molto forte. Di liberazione proprio. Come scusa? Di una liberazione, una specie di liberazione. La liberazione è un entusiasmo devo dirti, c'era molta paura che qualche cosa andasse storto. La scaramanzia, come abbiamo detto, prevaleva. Tutti erano prudenti, molto tesi. È stata una giornata di straordinaria tensione perché davanti all'anticipazione di quello che tutti speravano fosse il risultato della vittoria di Obama c'era questa paura forte che qualcosa potesse andare storto, dei brogli elettorali, che qualche stato fosse too close to call, troppo stretto per essere dichiarato a vantaggio dell'uno o dell'altro. Quindi c'è stata veramente questa liberazione per il sogno che si è realizzato, e devo dire, in questo l'America è straordinaria, come hanno detto in molti. Questo sicuramente è l'unico paese al mondo oggi in cui era possibile che una cosa di questo genere potesse succedere, che il figlio di un musulmano potesse essere eletto presidente degli Stati Uniti, che un uomo afroamericano di una minoranza nel paese che è ancora vista da molti con sospetto potesse essere eletto dalla maggioranza bianca. Ecco, questo è successo e questo naturalmente fa parte del sogno che si è realizzato ieri notte. Ti ringraziamo Mario, buon ritorno a New York, poi dalla settimana prossima cominceremo a analizzare insieme, come ci ha invitato a fare in un certo senso il Presidente Bush, le fasi di questa transizione, un momento particolare, un momento delicato, un momento anche da approfondire e comprendere sicuramente con il tuo contributo. Emiliano, invece diamo conto di quanto i nostri ascoltatori, devo dire anche loro con una passione partecipativa straordinaria, ci stanno inviando, così per trasmettere loro esperienza. Diamo voce agli ascoltatori che, certo, ci stanno scrivendo con ogni mezzo, mail, sms, manca solo carta, penna e calamaio di una volta. E io ho pescato tra le tante mail che sono arrivate, per esempio c'è Tiziano che ci scrive da Piovene, quindi provincia di Vicenza, che dice: è una strana sensazione quella che provo, seguo Jefferson Ming dalla prima puntata e siamo finalmente giunti allo scontro scritto tra virgolette, quindi nulla di minaccioso, decisivo. Poi salutiamo Fabio da Olbia che ci fa una bella mail di complimenti, che naturalmente fanno sempre piacere. Giovanni invece dice, poi non so qui se tu Stefano sei d'accordo, a mio parere McCain ce l'avrebbe fatta soltanto contro la Clinton, forse la sconfitta dei repubblicani era inevitabile con qualunque avversario, chi lo sa. Sì, sono d'accordo, e poi comunque il grande mondo dei seni. Poi c'è una lunga mail dettagliatissima, già proiettata nel 2016, quindi già vede la riconferma di un ascoltatore tra i più affezionati, l'incrollabile Maurizio da Londra, che ci scrive ottimo anche assiduamente. È un po' complicata, però ci si può riflettere. Dice: quale sarà la prossima sfida dell'integrazione razziale ora che un nero è arrivato alla Casa Bianca? Allora, andiamo nel 2016 con un candidato alla presidenza donna, con antenati ex schiavi da una parte ed ebrei dall'altra, da parte di padre e di madre, convertita però all'islamismo, quindi non contento di questo, e come suo vice un'altra donna in sedia a rotelle, mezza indiana, mezza messicana, e le due sono fidanzate, con un figlio ottenuto con inseminazione artificiale e il cui padre è Asian American. Immaginiamo infine che la tale candidata sia repubblicana. E poi conclude: oltre la mia immaginazione non riesce proprio ad andare. Le ha messe dentro tutte, insomma, le sfide dell'integrazione. Potremmo futura essere più realistici. La vera promessa repubblicana si chiama Bobby Jindal. Repubblicana si chiama Bobby Jindal, ha solo 37 anni, è governatore della Louisiana, è di sangue indiano d'America, nativo americano, e già rappresenta una possibile scommessa per il 2012. Pensate come, no, l'America sta ripensando, no, il profondo nucleo della sua materia. Beh, quindi, insomma, adesso i repubblicani hanno tempo per recuperare, per insomma, il divario che c'è in questo momento con i democratici. democratici. Poi ci sono due mail che non sono messi d'accordo i nostri due ascoltatori, ma propongono invece un qualcosa di sinistro, insomma, poi cerchiamo di uscirne anche con una battuta, perché ci scrive Francesco, che ha la moglie cinese, l'abbiamo anche sentito qualche volta da, da queste parti, che ci ricorda che Obama è il 44esimo presidente degli Stati Uniti, ma il 44, gli suggerisce la moglie cinese, è un numero funesto in Cina, perché il doppio 4, che è il numero della morte, insomma, che non va pronunciato, e insomma, naturalmente si augura che non ci sia nessun riferimento a Nostradamus, profezie sinistre. Alla fine dice, rimane il fatto che quest'uomo Obama ha una sfida grande davanti a sé e avrà bisogno dell'appoggio di tutti quelli che potranno darglielo, non soltanto in America ma in tutto il mondo. Aleggiano comunque tanti presagi anche negli SMS, ne cito solo un paio. Ce n'è uno di Fabio da Ferrara che dice: Obama, se saprà restare indipendente dai poteri economici, ha la possibilità, la statura morale di cambiare le sorti del mondo. In questo caso però temo fortemente per la sua vita. O c'è un altro ascoltatore, Giulio, che scrive: penso sia facile ipotizzare che Obama verrà assassinato addirittura prima della fine del suo mandato, perché non è obbligato a salvaguardare gli interessi delle grandi lobby. C'è come una connessione, no, fra la improbabile candidatura di Barack Obama e il pericolo che potrebbe circondare un suo percorso da presidente. Sul numero 4, 44, funesto in Cina, ci scrive anche Giacomo, anche lui un ascoltatore tra i più affezionati, che però diciamo, dà un tocco ottimistico alla vicenda. Dice: in fondo 44 è anche 4 più 4, cioè fa 8, il famoso numero magico cinese, 88-2008, Olimpiadi di Pechino. Abbiamo imparato a conoscerlo in tanti mesi qui a Jefferson Ming. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town. Been in trouble since I set my suitcase down. Now I know you didn't do this just to win an election. I know you didn't do it for me. So che non l'avete fatto solo per vincere le elezioni, so che non l'avete fatto per me. L'avete fatto perché capite l'enormità del compito di fronte a noi. Mentre celebriamo stanotte, sappiamo che le sfide che ci porterà il domani sono le più grandi della nostra epoca. Due guerre, un pianeta a rischio, la peggior crisi finanziaria da un secolo. Anche mentre stiamo qui stasera, sappiamo che ci sono coraggiosi americani che si svegliano nei deserti dell'Iraq e fra le montagne dell'Afghanistan, che rischiano la vita per noi. Ci sono madri e padri che restano svegli quando i bambini dormono e si chiedono come pagheranno il mutuo, le parcelle del medico, come risparmieranno per mandarli all'università. C'è una nuova energia da sfruttare, nuovi lavori da creare, nuove scuole da costruire, minacce da affrontare, alleanze da riparare. La strada è lunga, la salita sarà ripida. Forse non ci arriveremo in un anno, forse non ci arriveremo in un mandato. America, io però non ho nutrito tanta speranza come stanotte che ci arriveremo. Ve lo prometto, noi come popolo ci arriveremo. We will get there. I promise you, we as a people will get there. There will be setbacks and false starts. Ci saranno sconfitte e false partenze, ci sono molti che non saranno d'accordo con le decisioni e le politiche che seguirò da presidente, e sappiamo che il governo non può risolvere ogni problema, ma sarò sempre onesto con voi sulle sfide che affrontiamo. Vi ascolterò soprattutto quando non saremo d'accordo, e soprattutto vi chiederò di partecipare all'opera di rifare questo paese nell'unico modo in cui l'abbiamo fatto in America per 221 anni, pezzo a pezzo, mattone dopo mattone, mano callosa su mano callosa. what began 21 months ago. Quello che è cominciato 21 mesi fa nel profondo dell'inverno non può finire in questa notte di autunno. Da sola questa vittoria non è il cambiamento che vogliamo. Non potrà succedere se torniamo alle cose come erano. Non può succedere senza di voi, senza un nuovo spirito di servizio, un nuovo spirito di sacrificio. A new spirit, a sacrifice. So let us summon a new spirit. Quindi troviamo un nuovo spirito di patriottismo, di responsabilità, in cui ognuno di noi si decida a partecipare, a lavorare duro, a badare non solo a noi stessi ma anche agli altri. Ricordiamoci che se questa crisi finanziaria ci ha insegnato qualcosa è che non è possibile che Wall Street prosperi mentre la Main Street soffre. In questo paese cresciamo o affondiamo come una nazione sola e un popolo solo. Resistiamo alla tentazione di ricadere nelle stesse divisioni, nelle stesse meschinità e immaturità che hanno avvelenato così a lungo la nostra politica. Ricordiamoci che ci fu un uomo di questo Stato che per primo portò la bandiera del Partito Repubblicano alla Casa Bianca, un partito fondato sui valori della fiducia in se stessi e delle libertà individuali, dell'unità nazionale, valori che tutti condividiamo. Se il Partito Democratico stanotte ha ottenuto una grande vittoria, deve essere con umiltà e determinazione per sanare le spaccature che hanno frenato il nostro progresso. Come Lincoln disse a una nazione ben più spaccata della nostra, non siamo nemici ma amici. Le emozioni possono forzare ma non devono spezzare i legami dell'affetto. E a quegli americani di cui devo ancora conquistare l'appoggio, dico: non avrò ottenuto il vostro voto, ma sento le vostre voci. Mi serve il vostro aiuto, sarò il vostro presidente. And I will be your president too. E a tutti coloro che guardano stasera al di là delle nostre spiagge, dai parlamenti, dai palazzi, a quelli che si raccolgono attorno alle radio in angoli dimenticati del mondo, le nostre storie di coloro sono diverse, ma condividiamo lo stesso destino. Una nuova alba della leadership americana è a portata di mano. A quelli che vorrebbero distruggere il mondo dico: vi sconfiggeremo. We will defeat you. To those who seek peace and a quelli che cercano pace e sicurezza dico: vi sosteniamo. And to all those who have e a tutti coloro che si sono chiesti se il faro dell'America brilli ancora dico: stanotte abbiamo dimostrato che la vera forza del nostro paese non viene dalla potenza delle armi o dalla dimensione della nostra ricchezza, ma dal potere perpetuo dei nostri ideali: democrazia, libertà, possibilità, speranza incrollabile. That's the true genius of America. Questo è il vero genio dell'America, che l'America sa cambiare, la nostra unione può essere migliorata, quello che abbiamo già ottenuto ci dà speranza per quello che possiamo ottenere domani. This election had many firsts and many stories that will be told. Questa elezione ha visto molte nuove storie che saranno raccontate per generazioni, ma ne ho in mente una stasera, di una donna che ha votato ad Atlanta, somiglia a milioni di altri che si sono messi in fila per far sentire la loro voce, ma Ann Nixon Cooper ha 106 anni. È nata una generazione dopo la schiavitù, quando non c'erano automobili in strada né aerei in cielo, quando una come lei non poteva votare per due ragioni: perché era donna e per il colore della sua pelle. E stasera penso a tutto quello che ha visto nel suo secolo in America: i dolori, la speranza, la lotta, il progresso, le volte che ci hanno detto che non potevamo, e la gente che è andata avanti col credo americano: sì che possiamo. The struggle and the progress. The times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: yes, we can. In un momento in cui le voci delle donne venivano fatte tacere, le loro speranze distrutte, lei ha vissuto fino a vederle alzarsi in piedi, prendere la scheda. Sì, possiamo. Quando c'era solo disperazione e depressione nel paese, ha visto una nazione sconfiggere la paura con un New Deal, nuovi lavori, nuovi scopi comuni. Sì, possiamo. Yes, we can. Quando le bombe sono cadute sul nostro porto, la tirannia minacciava il mondo. Lei era lì a testimoniare una generazione eroica, una democrazia salvata. Sì, possiamo. Lei c'era per gli autobus a Montgomery, gli idranti a Birmingham, un ponte a Selma, un predicatore di Atlanta che disse a un popolo: "We shall overcome, noi ce la faremo, sì, possiamo." Un uomo ha camminato sulla Luna, un muro è caduto a Berlino, un mondo è stato messo in rete dalla scienza. Quest'anno, in questa elezione, lei ha messo il dito su uno schermo, ha votato dopo 106 anni in America. Attraverso tempi migliori, lei sa come l'America può cambiare. And cast her vote. Because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. Yes, we can. America, abbiamo fatto tanta strada, abbiamo visto tanto, c'è tanto da fare. Chiediamoci se i nostri figli dovessero vivere fino a vedere il prossimo secolo, se le mie figlie fossero così fortunate a vivere quanto Ann Nixon Cooper, che cambiamenti vedranno? Che progressi avremo fatto? Qual è la nostra opportunità di rispondere? Questo è il momento per ridare alla gente il lavoro, aprire le porte dell'opportunità ai bambini, ridare prosperità, promuovere la causa della pace, reclamare il sogno americano, riaffermare la volontà fondamentale che di tanti siamo uno, che finché abbiamo respiro abbiamo speranza, che se troviamo davanti a noi il cinismo, i dubbi e chi ci dice che non possiamo, risponderemo con quel credo senza tempo che riassume l'intero spopolo di un popolo. Sì, possiamo. Grazie. Dio vi benedica, Dio benedica gli Stati Uniti d'America. That we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. Bene, anche per questa trasmissione, no? Ieri è stato il giorno zero di una rincorsa cominciata quasi 2 anni fa, che è passata attraverso passaggi appunto epocali, no? Di questa modernità. Abbiamo raccontato le Olimpiadi, abbiamo raccontato le elezioni americane. Oggi è già il giorno 1, comincia la transizione, il mondo si ridisegna, continueremo a raccontarlo. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Giacomo Spunta, Jefferson Ming, Radio 24.it. Grazie per le mail e i messaggi, domani vi daremo più ampio conto. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta come sempre alle 4, domani qui su Radio 24.